spiegare, secchiando il tuo viso d'angelo. E sono le ali, una rosa nel letto, un amante perfetto, il nome che lo scotti. Guardando il tramonto insieme, bevendo sangria.